Non so se abbiate mai sentito raccontare quella stupida barzelletta del tipo curioso che si trova di fronte a un palo altissimo, in cima al quale si intravede un cartello su cui c'è scritto qualcosa che lui non riesce a leggere. Per cui, visto che è appunto un tipo curioso, decide di arrampicarci. Sì, è un'impresa difficile perché il palo è alto, liscio e scivoloso, ma lui ci prova lo stesso. Si sforza, si spezza le unghie, si scortica il palmo delle mani, ogni 3 metri che guadagna in altezza ne perde 2 in discesa scivolando verso il basso, deve ricorrere a tutta la sua energia, a tutta la sua determinazione, ma alla fine arriva in cima e scopre che sul cartello c'è scritto semplicemente fine del palo. Sì, lo so, non fa ridere, anche se la mia vecchia nonna, raccontandomela quando ero bambino, rideva sempre di cuore, ma è un buon modello di meccanismo comico. Qualsiasi specialista del ramo vi spiegherebbe che è un esempio classico di contrasto tra significanza asserita e insignificanza di fatto. E forse questo è il problema, perché oggi a vivere tra significanze asserite che di fatto meno significanti di così non potrebbero essere, ci siamo abituati un po' tutti. Eppure a questa vecchia e stupida barzelletta mi capita oggi di ripensare tutte le volte che passo di fronte a un passo carrabile, o carraio, non so bene come si dica, comunque un portone che introduce in un cortile, no? In corrispondenza al quale il marciapiede è tagliato di sbieco in modo che i carri e altri mezzi semoventi diretti a quel cortile possano entrarvi senza difficoltà. Non è un'esperienza straordinaria perché nella nostra città il 90% degli edifici è costruito attorno a un cortile e dispone appunto di un passo carrabile. In corrispondenza del quale, da qualche mese a questa parte, vengono affissi dei cartelli che indicano che quello è un passo carrabile, proprio come la fine del palo nella barzelletta della mia nonna. Quei cartelli non sono esclusivamente indicativi, e a dire il vero sono anche precettivi, contengono anche il simbolo del divieto di sosta, è un passo carrabile, per favore non fermateci davanti. Ma che in corrispondenza di un passo carrabile non si possa sostare non dovrebbe essere necessario specificarlo, in fondo ce lo insegnano la logica, la buona educazione e credo il codice della strada. Anni fa, quando l'universo era giovane, tutti sapevamo anche senza cartelli che davanti ai passi carrabili altrui era meglio non sostare. Poi i tempi si sono fatti più duri, molti hanno sentito il bisogno di esplicitare quello che una volta era implicito, che una volta era affidato al sapere generalizzato delle masse, alla coscienza popolare, e da un po' che i fruitori dei passi carrabili si sentono più sicuri se in corrispondenza del loro taglio nel marciapiede compare il cerchio rosso e blu del divieto di sosta. D'accordo, lo sappiamo tutti. Ma perché mai? Perché mai in testa ai cartelli in questione da un po' appare la specifica Comune di Milano? Non c'è veramente nulla di più superfluo. Che siamo a Milano, affidati, in modo di dire, alla sua amministrazione comunale, lo sappiamo davvero tutti. E perché cavolo in calce figurano delle strane precisazioni del tipo di autorizzazione numero 4056,006/95, o simili sequenze numeriche? È ovvio che per farsi tagliare il marciapiede in corrispondenza del portone del proprio cortile bisogna chiedere un'autorizzazione alle autorità municipali. E probabilmente, visti i costumi burocratici vigenti, è ovvio che tali autorizzazioni siano archiviate da qualche parte e numerate. Ma questo che cavolo può importare a chi viene avvisato di non sostare in quel luogo per non bloccare l'accesso dei mezzi in quel cortile? È un diritto dovere assolutamente pacifico su cui non credo possibile contestazione alcuna, inopinatamente viene fatto dipendere da un atto burocratico, l'autorizzazione, che da sanzione di uno Stato di fatto, com'è come non è, viene promossa elemento fondante della situazione in questione, perché è ovvio che se espongo un cartello di quel tipo acconsento implicitamente all'ipotesi per cui in caso di mancata esposizione o di mancata indicazione del numero dell'autorizzazione o di mancata esplicitazione del nome dell'autorità comunale che rilascia l'autorizzazione, non potrò lamentarmi se l'accesso al portone di casa mia sarà bloccato in permanenza da un tiro in sosta. Espletate le opportune indagini, posso informarvi che questa sgradevole ipotesi è avvalorata in un certo senso da un atto legislativo, l'articolo 120 del regolamento d'attuazione ed esecuzione del codice della strada. Articolo che dispone, virgolette, che il segnale indicante il divieto di sosta sul passo carrabile debba recare gli estremi identificativi dell'autorizzazione nonché dell'ente deputato al rilascio, chiuse le virgolette, onde evitare, suppongo, che qualche sovversivo si faccia autorizzare dal comune di Gorgonzola a godere di un passo carrabile a Milano o viceversa. E prescrive il codice della strada, anzi il regolamento d'attuazione al codice della strada, visto che ci siamo, che il segnale debba essere conforme per colori, rifrangenza, materiale e caratteristiche alle norme espressamente dettate, alle norme che esso articolo espressamente detta, per cui solo in cartelli uniformi, tutti delle stesse dimensioni, dello stesso materiale, dotati tutti dello stesso grado di rifrangenza, è lecito nutrire fiducia. 3 cm in più di larghezza, uno sfondo di un colore leggermente diverso dal bianco lucido prescritto, non so, un verdolino, un rosatello, lasceranno al vostro passo carrabile esposto agli oltraggi e alle offese della fortuna malevola e autorizzeranno chiunque a parcheggiarvi davanti a piacer suo. Perché mai? Perché mai il legislatore abbia deciso di regolamentare la materia con tanta minuzia, non saprei proprio dirvi. L'amico Felice Accame, qui presente, che ho interpellato, ha ipotizzato che l'idea base fosse quella di incrementare l'occupazione. Capirete, tra rilasciare le autorizzazioni, comunicarne gli estremi agli interessati, dar loro il tempo di approntare i cartelli regolamentari, distribuirli, installarli, si guadagna un bel po' di posti di lavoro, tanto più preziosi adesso che dobbiamo entrare in Europa, che notoriamente è un casino per tutti. O forse, forse l'autorità non ha saputo resistere al fascino del vecchio principio per cui tutto quanto non viene espressamente vietato va reso scrupolosamente obbligatorio. Sì, è questione di educazione, bisogna insegnarlo alla gente, è questo, no? Si comincia dai passi carrabili che in fondo non danno fastidio a nessuno e chissà dove si può finire. Che uno possa fare soltanto quello cui è espressamente autorizzato e nelle forme precise in cui l'autorizzazione è concessa, è un principio che a chi governa non dispiace mai, quale che sia il suo orientamento politico e quindi anche nei tempi dell'Ulivo.